Vabbè, lo ricostruiamo, dai. Allora, dicevo, il paradigma meccanicista di diciamo Cartesio è il primo di, insomma, di Cartesio e poi del secolo diciamo successivo. Non a caso è nel Settecento, cioè nel XVIII secolo, il secolo dopo Cartesio, che abbondano le speculazioni filosofiche, le elaborazioni filosofiche basate sull'idea dell'uomo come macchina. Bastava prendere il materialismo cartesiano, eliminare la res cogitans, non considerare la mente come una sostanza diversa dal corpo, ma considerarla in qualche maniera una specie di funzione del corpo, e il paradigma meccanicista era bello per fatto. Il meccanicismo è una ideologia che non è abbracciata da tutti e due i fondatori della Encyclopédie francese, sapete, l'enciclopedia, diciamo che D'Alembert, in quanto matematico, era un po' più materialista organico che non Diderot. Diderot era una roba a mezza strada tra il materialismo, come dire, oltranzista, adesso insomma vi dirò di chi, e una specie di opzione volteriana. Voltaire è il più noto dei teisti dell'epoca, cioè i teisti sono persone che credono in Dio senza credere che il Dio sia esattamente quello descritto dalle religioni monoteiste, però credono che ci sia una specie di essere supremo, eccetera, eccetera. Ma c'è invece una corrente molto più organicamente materialista, rappresentata in genere da francesi, i principali dei quali sono D'Holbach, che era un nobile di origine tedesca, e Lametrie soprattutto. Lametrie scrive un testo che si chiama appunto L'Homme Machine, l'uomo macchina, che è il... Vuoi venire adesso, Giovanni? Alle tre, fra. Alle tre, 20 minuti ancora, mezz'ora. È l'ansia, è la gente ansiosa. Bisogna vedersi, Carolina, se ricorda. No, oppure credono che sia totalmente rincoglionito, che dico delle cose e poi me le dimentico. Invece, stavolta no. Capita, non è così che non capita, ma questa volta. Allora, diciamo, il testo, vi dico questo testo, intanto che è uno dei... mentre le opere di D'Holbach non sono più disponibili in italiano, il testo di Lametrie, se non mi sbaglio, è ancora disponibile nelle edizioni S.E., credo. Si chiama L'uomo macchina. L'uomo macchina è un bel... è un libro che abbonda, ma come tutte le opere anche del meccanicismo ottocentesco, di affermazioni tipo, vabbè, adesso non siamo ancora in grado di spiegare bene come la materia crea il pensiero, ma in linea di principio è, diciamo così. Io non vi nascondo la mia grande simpatia per, come dire, posizioni di questo tipo, anche se naturalmente mi rendo conto che è imbarazzante dover sempre dire, questa è l'unica cosa che gli, insomma, spiritualisti hanno di vagamente giustificato nei confronti di noi materialisti. Vabbè, però se cazzo non ci potete mai spiegare davvero com'è che la materia crea il pensiero, com'è che il pensiero è una funzione della, come della materia, ma è chiaro che è sempre un po', da un certo punto di vista è vero che è un'affermazione molto vaga e molto, diciamo, generica. Bisogna anche dire però che questo materialismo settecentesco e ottocentesco è un materialismo terribilmente ingenuo. Insomma è proprio pieno di cose così, insomma, di sparate, per cui oggi, insomma, si possono avere ipotesi. Il problema è che oggi noi disponiamo di conoscenze sul funzionamento materiale dei dispositivi. Ecco, il termine macchina, per esempio, è un termine che oggi non tendiamo a non usare più, perché è molto... sappiamo che gli esseri viventi hanno un funzionamento molto più duttile, molto più variegato, molto più imprevedibile. Gli esseri viventi, mica dico solo l'uomo, tutti gli esseri viventi, più imprevedibile di qualsiasi macchina, anche la più, diciamo, sofisticata. Però abbiamo creato altri termini, possiamo parlare per esempio di dispositivi, di apparati, di varie cose, che hanno anch'essi tra l'altro poi vari significati. Per esempio il dispositivo è un termine chiave della filosofia foucaultiana e quindi ti vedo qualcosa in mano della filosofia foucaultiana, ma adesso noi non lo usiamo nel senso foucaultiano, il termine dispositivo. Possiamo dire gli esseri viventi sono dei dispositivi. Ma torniamo alla questione dell'informazione. Allora, il nuovo materialismo novecentesco, non materialismo, chiamiamolo con il suo termine reale, la nuova versione novecentesca del meccanicismo è l'informazionalismo. Mentre l'ipotesi, la metafora prevalente nel 700 e nell'800 per affermare la riduzione degli esseri viventi a luoghi di organizzazione di particolari movimenti della materia era la macchina, cioè gli esseri viventi sono macchine. Questo è, diciamo, l'assioma, il cardine del fondatore di questo paradigma materialistico che è Cartesio, e questo è il meccanicismo. Cioè per due secoli e mezzo, diciamo metà del 600, ma soprattutto 700 e 800, il punto di vista meccanicista è riassumibile nella asserzione: gli esseri viventi sono macchine. Nel Novecento, allora, tutta questa cosa è contestata da una serie, cioè ci sono intere correnti filosofiche che negano questo punto di vista. E non parlo dell'idealismo tedesco, ovviamente, insomma, anche, diciamo, correnti filosofiche non così apertamente o, diciamo, svergognatamente idealistiche, come la fenomenologia di Husserl, come la filosofia dello spirito di Bergson, che è una filosofia. Bergson non è un materialista, ma è un filosofo che i materialisti possono usare da un certo punto di vista, però lui ha una nozione di spirito. Allora, c'è stata tutta una serie di, come dire, non è che il meccanicismo ha stravinto in campo, diciamo, filosofico, no? Quindi però ha orientato tutta una parte della ricerca scientifica, eccetera, eccetera. Con la scoperta del DNA di Watson e Crick, trovate l'anno giusto, io non me lo ricordo, credo sia il 54, però non lo so, andate a vedere su Wikipedia su questo, si spera che l'anno non sia sbagliato. Mi sa che è il 54, l'anno in cui pubblicano l'articolo in cui spiegano, quindi l'avranno scoperta nel 53, più o meno. Con questa cosa si afferma un paradigma nuovo che dà luogo a una versione più sofisticata, meno stupida, meno attaccabile del, diciamo, meccanicismo, ma altrettanto criticabile, secondo me, e che è quella, appunto, dice no, non è vero, diciamo, l'assioma o l'affermazione fondamentale dell'informazionalismo è: non è più gli esseri viventi sono macchine, gli esseri viventi sono dispositivi di elaborazione dell'informazione. Certamente tradotto in un italiano un po' più corrivo, gli esseri viventi sono computer. Forme di computer molto sofisticati, computer paralleli, computer quantici, nessuno di questi informazionalisti ci dice che gli esseri viventi, che un gatto funziona davvero come un come un PC, cioè tanto, non sono così stupidi. Però ci dicono il modello di fondo che li può descrivere è comunque. La vita non è altro che una continua elaborazione di informazione. Attenzione, l'asserzione, la vita, gli esseri viventi sono dispositivi di gestione dell'informazione, è così generica che non vale neanche la pena di criticarla in quanto tale, perché dipende tutto da che cosa si intende per informazione. Certamente, se pensiamo al momento in cui nacque, tutto questo paradigma nacque nel giro di pochissimi anni, ve lo dico adesso così facciamo un minimo di cosa storica, poi penso di tornarci perché la Hale ne parla molto bene anche nel suo libro, ma diciamo, vi comincio ad anticiparvi questa informazione. Tutto nacque da diversi, sono diversi filoni che poi diciamo presiedono alla nascita della cibernetica. Quando nel 1947 Norbert Wiener inventa il termine cibernetica, che è un neologismo preso dal greco, basato sul greco, ma non c'è nessuna parola greca che vuol dire cibernetica, lo fa Wiener non è l'unico evidentemente, ma insomma lo fa sulla base di una serie, diciamo gli eventi fondamentali sono due. Il primo cominciano, credo per il 48 e il 49, non mi ricordo bene, ad esserci una serie di incontri che si tengono, incontri di tipo scientifico, che si tengono nella cittadina americana di Messi, non mi ricordo lo stato, quindi, ma si può ricavare. Ci fosse un po' di gesto, ma non c'è. Di Messi, M-A-C-Y, e sono gli incontri di Messi che sono praticamente coordinati in gran parte da Norbert Wiener, e in cui tutta una serie di scienziati discutono esattamente di biologia, di ingegneria, eccetera. Diciamo, i filoni di problemi che innervano questa discussione, i problemi pratici da cui queste cose nascono, sono fondamentalmente tre. Diciamo, uno biologico. Si tratta, la biologia in quel periodo, Crick e Watson non hanno ancora scoperto il DNA, siamo qualche anno prima, però la biologia si sta ponendo il problema di descrivere, di capire sempre meglio le relazioni che ci sono tra funzionamento fisiologico di certi organi degli esseri viventi, per esempio il cervello, o ancora più semplice, per esempio i sistemi di visione, per esempio della rana, ti dico diciamo, della rana perché la rana sarà al centro di uno dei più importanti testi di questo periodo, di McCulloch. McCulloch fa una specie di modello del, non proprio del diciamo, cervello, ma del neurone, basandosi sul problema di capire come mai la rana riesce, cioè ha una visione che riesce a distinguere con molta precisione gli insetti di una particolare categoria da altri esseri viventi volanti e piccoli come gli insetti, ma che non sono insetti. Perché la rana, quando le passa vicino una mosca, riesce a cacciare fuori quella lingua lunga quasi quanto il suo corpo, che arraffare la mosca, ma è quindi cibarsi, perché la rana non muore. Se la rana non avesse dei dispositivi che non sono solo il cercato, quanta che dice lingua lunga hai, questo ce l'ha anche la signora Teresa del piano di sotto, ma dice c'è che lingua lunga hai, non devi avere solo una lingua lunga, devi avere un meccanismo cerebrale in grado di dire cazzo, ho capito, quella è una mosca, quella è, e nel giro di un nanosecondo, perché si chiede cosa? E questo McCulloch studia e tenta di dare una interpretazione meccanicista della struttura della retina della rana, cioè se no cioè, l'essere umano, anche se avesse la lingua come quella della rana, e ci sono alcuni alcuni personaggi di alcuni romanzi di cyberpunk in cui ci sono delle signore con una lingua lunghissima che risale, una cosa che fa roba veramente di fantasia, ma insomma non ce la farebbe lo stesso l'essere umano, perché non c'ha la retina della rana. La retina nostra è totalmente inadatta per il compito che fanno le retine rane. Quindi primo, diciamo, filone, costruire un modello informazionale di costrutti biologici, di esseri viventi o di parti di esseri viventi. Ripeto, in anticipo sulla scoperta del DNA, però il panorama concettuale è già abbastanza. Seconda tematica, costruire o trovare le basi concettuali per costruire dei servomeccanismi, quindi delle macchine, delle cose di metallo, o anche di plastica, ma insomma di metallo, perché all'epoca ancora le plastiche, poi le robe così, in grado di almeno embrionalmente modificare il proprio comportamento durante il loro funzionamento. Da che cosa derivava questo problema? Giovanni, fammi solo finire il discorso e poi ti lascio la parola a te. Devo arrivare a un punto, ma ci metto pochi minuti. Sì, no, molto prima facciamo. Cosa ho detto? Delle macchine. Ok. Allora, da dove veniva il problema? Era il problema dei missili. Quando la Germania, durante la guerra, bombardò, riempì, sottopose la città di Londra al bombardamento delle famose V2, i missili tedeschi si chiamavano V2, nel romanzo di Pynchon l'arcobaleno della gravità, trovate una rievocazione molto, molto bella. Questo fu un terrore per i londinesi. Non erano aerei, erano prototipi di missili, i primi missili terra-terra, lanciati dalle coste occidentali della Germania, ed erano missili con un rudimentale assolutamente molto primitivo, ma con un embrionale dispositivi di regolazione. Londra va nel panico, la RAF si mette a fare missioni. Fu il periodo più intenso di azioni belliche della RAF, quello per tentare di distruggere, di colpire queste cose da cui partivano le V2. Ma l'America non era ancora entrata in guerra, stava per entrare, sia in USA che in America. Cazzo, dice, no, qua bisogna trovare qualche cosa che sia come quelle robe lì e anche meglio. Norbert Wiener era esattamente un ingegnere che in America tra il 43 e il 44 costruisce i primi meccanismi di regolazione per missili, cioè per oggetti volanti, non aerei, oggetti volanti per i cazzi loro, che hanno un motorino, ma che hanno qualche piccolo meccanismo che sulla base di alcuni parametri, per esempio il calore, gli consente di più o meno. Quella è la nascita, cioè questo è il secondo problema che determina la nascita della cibernetica. Terzo problema, sempre bellico, quello della rana non è tanto bellico, ma ovviamente ha applicazioni belliche pure quello. Gli altri due sono chiaramente bellici. Terzo problema, il problema della trasmissione delle informazioni lungo canali o via etere o via cavo di simboli, cioè di sequenze simboliche, parole, lettere, numeri, eccetera. Quando io devo mandare un segnale attraverso una linea telegrafica o attraverso una cosa radio o voce, qual è il problema da un punto di vista ingegneristico? È il rapporto segnale-rumore. Ci sono dei rumori, ci sono dei disturbi chiamati in termini tecnici rumori, noise, c'è del noise, c'è del rumore sulla linea elettrica e nel cosiddetto etere, cioè nello spazio quando si mandano. Questi rumori, cioè queste alterazioni casuali della carica elettromagnetica che sta viaggiando o sul cavo o via etere, queste alterazioni generano delle alterazioni nel messaggio. Quindi colui che riceve il messaggio non ha esattamente quello che il mittente gli ha mandato, ma ha alcune lettere sbagliate, alcune cose diverse, eccetera. Allora, occorreva una teoria matematica, non esisteva una teoria matematica dell'informazione, un concetto di informazione. A questa cosa pongono rimedio due matematici, Claude Shannon, sapete come si scrive? Claude, e Shannon, S.A. Non c'ho gesto, mi tocca fare, è andata perché non riesco a scrivere. Vedi, sì, che roba. Bravo, vediamo se arriva, perché sennò non... Claude Shannon e Dennis, mi pare, ma non sono sicuro del nome del film, Weaver, come Dreamweaver, togliete Dreamweaver, ondeggiante, Weaver, salutante, no, quello Weaver. Weaver, no, devo dire Weaver, no, tessitore. Weaver, allora, Shannon e Weaver scrivono nel 1949 un libro fondamentale, 1949, io avevo 5 anni, ma non lo sapevo a 5 anni che era uscito quel libro, che si chiama The Mathematical Theory of Communication, la teoria matematica della comunicazione. Nel quale viene per la prima volta enunciato un concetto matematico, la parola nel titolo non c'è, di informazione. Si definisce l'informazione, si definisce una formula, con una formula si definisce una quantità fisica chiamata informazione, che è molto simile alla quantità fisica chiamata entropia e che era stata studiata nella termodinamica nel secolo precedente. L'insieme di questi tre filoni, quindi una ricerca biologica tesa a chiarire i rapporti tra fisiologia e funzionalità all'interno del comportamento degli esseri, come dire, viventi. Secondo, una tematica di tipo ingegneristico. Come si possono costruire macchine stupide ma che si autoregolano, cioè che sono capaci in qualche maniera di modificare il proprio comportamento in corso d'opera. 3. Come costruire una teoria, una matematica seria, affidabile poi per le applicazioni scientifiche, della informazione. Vedete che ci sono già molti dei termini che vi ho detto, capite che questo è una cosa che si ficca dentro, è molto collegata con la visione del meccanicismo, eccetera. È un modo, queste tre cose sulle quali Norbert Wiener costruirà la cibernetica, con un libro del 1950 o 52, The Human Use of Human Beings, l'uso umano di esseri umani, The Human Use of Human Beings, in cui mette, non c'è ancora il termine cibernetica, ma in quel libro viene introdotto questo termine. Cibernetica che deriva in greco Kubernetes, è il timoniere, colui che timona la nave. Quindi la cibernetica è la scienza di usare il timone. Voi pensate a questi missili che vanno e che hanno un timone più o meno intelligente e incorporato, capace di farli deviare il percorso a seconda che l'obiettivo si allontana, per esempio se è un aereo. Oggi un missile aria-aria è una roba normale, che il missile aria-aria dice becca quell'aereo lì e il missile segue quell'aereo, mica segue altri aerei con fonti di calore, eccetera, regolazioni. Ci sono oggi cose molto più, nei 50 anni, 60 anni fa non c'erano ancora, quindi però si cominciava a porre delle cose. Bene, questo con la cibernetica è in sintesi un meccanismo, rappresenta un quadro concettuale nuovo per la nuova forma di meccanicismo del Novecento che possiamo chiamare informazionalismo. La chiamo io così e poi non è che nei libri la trovate, però mi pare, perché al centro c'è questo concetto matematico di informazione. Giovanni, se viene, se è andato adesso, per unire troppo lungo, io mi trovavo adesso e entro questo clima culturale, concettuale, il tema dell'uomo artificiale, ripeto, tema vecchissimo, acquista nuova, diciamo, cambia un po', insomma, no? Perché ci si pone il... Ok, questo è... Poi in realtà la cibernetica passerà attraverso varie vie, varie forme successive, insomma, che vi racconterò dopo, e vi racconterò anche naturalmente gli immaginari di questa. Sono le 3:02, facciamo la pausa, aspettiamo Giovanni, non ve ne andate però perché Giovanni mi deve dire sta roba sulla valutazione.